I nostri morti di Achille Campanile. O voi non lo sapete, voi non lo sapete, ma quando si chiudono le porte e si accendono i lumi dentro le case, le anime di coloro che non sono più vanno a trovare i poveri vivi. S'avanzano leggere, s'affacciano in punta di piedi ai vetri delle finestre a pian terreno per guardare non viste quello che accade all'interno. Le anime accomodano i fiori sulle siepi, pregano per i superstiti che vedono andare e venire per le stanze accudendo alle tranquille faccende della sera. Qualche anima lacrima e dice: noi abbiamo già risolto il nostro problema, voi siete là, nella bufera. Gettano piccoli baci attraverso i vetri nell'interno e qualche volta guardano se ancora ci sono le loro fotografie appese alle pareti. C'è una muta rassegnazione lì dentro. I superstiti, invecchiati, qualche volta sono raccolti in una stanza. Una donna va e viene, prepara la cena, apparecchia la tavola, porta a far vedere un dolce che sta facendo con le sue mani. Si fa andare il grammofono, si sfoglia il giornale, mentre fuori è buio e tira vento. Molti vuoti sono nella compagnia, che un giorno era numerosa e allegra. Questo ha fatto il tempo, che è andato da una parte, che è andato dall'altra. Alcuni sono scomparsi, poi a poco cadono gli altri e lasciano sempre più esiguo il numero dei superstiti, feriti, invecchiati, mutilati. E intanto c'è qualcuno che continua a pensare alle cose indispensabili, alla faccenda della cucina, ad accendere la stufa e persino a preparare qualche volta un dolce e apparecchiare la tavola in modo festoso, quasi come nei giorni lontani. Sì, che tra i superstiti torni a fiorire il sorriso e quasi l'illusione che il tempo non sia passato e tante cose non siano avvenute. Poveri vivi, le anime li stanno a guardare, non viste, attraverso i vetri delle finestre, e piangono per loro. Qualche volta cercano di fare un piccolo segnale e battono un colpetto sui vetri. È il vento, dicono i vivi, e pensano alle cose passate, alle persone scomparse, ai volti quasi cancellati dalla memoria.